Crediamo molto nel valore dell'affitto civico proprio perché in qualche modo la crisi abitativa non riguarda solamente chi vive sulla propria pelle una difficoltà nell'accesso alla casa, ma riguarda anche il tessuto urbano, come si modifica la nostra città, come fare in modo di proteggerla in qualche modo, non farla diventare una città che espelle i ceti più fragili. Questo non sarebbe degno della storia, dell'identità di Bologna, anche in centro storico, quindi dobbiamo lavorare su questo. Per questo la Fondazione ha lungamente discusso anche con i sindacati, con il terzo settore, con le associazioni che lavorano sul diritto alla casa, e l'idea è appunto di stimolare la rimessa in circolo di patrimonio sfitto pubblico e privato. E quindi oggi questa è la nostra missione, pensiamo sia una missione condivisa, non solo delle istituzioni, non solo una lotta di chi cerca casa, ma davvero una missione condivisa da tutte e tutti. Ecco, il ruolo dell'amministrazione comunale all'interno di questa fondazione quale sarà? Beh, innanzitutto una massiccia dotazione di risorse, sono oltre 5 milioni di euro quelli che vanno a costituire anche il fondo di garanzia per la morosità incolpevole, ci sono misure di scontistica sull'IMU per chi affitta appunto passando da un appartamento sfitto turistico e invece affittarlo a canone concordato tramite la fondazione. Risorse umane importanti chiaramente, no? Anche a differenza del precedente esperimento dell'Agenzia Metropolitana per l'Affitto, e risorse materiali, 400 appartamenti pubblici nei prossimi anni che verranno destinati alla fondazione stessa.